America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Beh, voglio continuare ad esplorare un po' il consuntivo 2017 e proiezione al 2018 e in questa puntata vorrei soffermarmi sugli aspetti proprio più politici, perché il 2018 sarà un anno di elezioni di metà mandato, elezioni importanti. L'amministrazione Trump, il presidente Trump, diciamolo, nel corso dell'anno ha parlato molto ma ha concluso poco, ha anche abbaiato molto ma ha morso finora abbastanza poco, ha abbaiato molto per esempio sul fronte commerciale, sul fronte dell'immigrazione, però poi non è riuscito ad ottenere granché o comunque in certi casi ha persino fatto marcia indietro. Quindi dobbiamo chiederci quanto la sua base politica alla fine sarà soddisfatta da certe sue azioni. Verso la fine dell'anno in realtà poi c'è stata un'accelerazione, nel senso che è riuscito a passare alla riforma fiscale, ha riconosciuto Gerusalemme capitale, insomma si è dato parecchio da fare. Ma per fare un'esplorazione a tutto campo di quelli che sono stati momenti politici salienti e cosa possiamo aspettarci per il 2018, vi propongo una chiacchierata con Federico Rampini, corrispondente per Repubblica dagli Stati Uniti. Buongiorno Federico. Buongiorno. Allora, siamo alla fine dell'anno, post Natale, insomma, comincia a essere un po' un periodo di bilanci. Bilancio Trump, alcuni dei suoi risultati, per esempio la riforma fiscale, per esempio il passaggio da Tel Aviv a Gerusalemme come capitale israeliana, sono dei risultati o dei passi che vanno incontro alla sua base politica. Secondo te resta affezionata a lui questa base che lo ha portato alla Casa Bianca? Io penso di sì, ne ho anche avuto qualche prova, nel senso che ho girato l'America profonda, dal Midwest giù fino al Texas, proprio in quelle zone che lo avevano votato, e ho trovato a un anno dalla sua elezione che c'era ancora il consenso nel suo zoccolo duro. E le cose che lui ha fatto, soprattutto verso la fine dell'anno, come tu dicevi, tendono a rafforzare proprio questa base, minoritaria ma molto fedele. È stato un anno però dove non ci sono stati grossi risultati. In fondo Trump non è riuscito a portare delle leggi per l'approvazione del Congresso, a parte la riforma fiscale e a parte il riconoscimento che ha avuto dalla Corte Suprema per l'immigrazione o per l'arrivo, per la concessione di visti a gente in arrivo dal mondo islamico. Ecco, nel 2018 pensi che questa accelerazione di fine anno con la riforma fiscale, con un paio d'altre cose, continuerà? E se continuerà, su che fronti? Deve continuare perché ha bisogno di dare più sostanza alla sua azione di governo. Io metterei al primo posto il protezionismo. Lui è stato eletto con i voti decisivi dei metalmeccanici, di una classe operaia impoverita dalla concorrenza cinese o messicana. Deve cominciare effettivamente a mordere su quel fronte, cioè revisione del trattato NAFTA, del mercato comune nordamericano, ma anche un attacco più duro in sede World Trade Organization alla Cina per tutte le pratiche effettivamente scorrette e sleali della Cina. Ecco, tu sei stato corrispondente da Pechino, quindi sai bene come si comporta, come agisce la Cina. Su quali fronti pensi che cercherà di colpire Trump? Protezione dei diritti intellettuali, dumping? E non c'è, come in fondo ha detto molte volte, la possibilità che magari chiuda un occhio se la Cina darà un aiuto alla Corea del Nord, perché il problema nucleare Corea del Nord resta. C'è il rischio, direi, che Trump scivoli verso questo compromesso. Secondo me invece lui dovrebbe tenere duro sul fronte commerciale. Le cose che hai citato tu sono esattamente i temi su cui lui deve aggredire la Cina, cioè ha cominciato a farlo a parole, ma mancano gli atti, cioè il livello dei dazi cinesi, che è il quintuplo di quelli americani, il livello del dumping sostenuto da aiuti di Stato, la Cina vende sotto costo perché le sue aziende godono di aiuti pubblici, e infine il furto sistematico di proprietà intellettuale legalizzato attraverso quelle norme con cui la Cina impone agli investitori stranieri di creare delle joint venture e di trasferire know-how al socio cinese. Ecco, guardando al 2018, un altro tema molto forte è quello del Russiagate. Secondo te Mueller alla fine che cosa farà? Abbiamo visto che ha aperto anche un'inchiesta con Deutsche Bank, sta focalizzando su possibili transazioni finanziarie, si dice che abbia nel mirino più il genero, Jared Kushner, oppure il figlio, Donald Trump Jr. Si arriverà anche al presidente. Beh, questa è la cosa che conta di più, perché se anche Mueller dovesse incriminare o perfino arrestare parenti stretti del presidente, tutto questo lascerebbe il presidente in carica. Allora, per avvicinarsi al presidente, io credo che la strada più verosimile sia quella dell'ostruzionismo al corso della giustizia, perché la collusione con Putin temo sia quasi impossibile da dimostrare, mentre invece sull'ostruzione al corso della giustizia, che è un reato da impeachment, per esempio il licenziamento di James Comey al vertice dell'FBI, se viene dimostrato che Trump lo licenziò perché lui non accettava di cessare quell'indagine, beh, allora entriamo in territorio da impeachment. Ecco Federico, un paio di così di voli d'orizzonte, sempre guardando alle sfide future, su cui ovviamente è difficile avere delle risposte precise. Però c'è il 2018, anno elettorale, anno di metà mandato. Abbiamo visto nelle elezioni del 17, dove c'erano vari seggi senatoriali, governatoriali e per la Camera, che i democratici hanno fatto molto molto meglio di quello che si poteva immaginare. Secondo te il 2018 potrebbe essere l'anno in cui i democratici riconquistano la maggioranza di una delle due Camere o di tutte e due? È possibile, però devono ancora fare tanto lavoro, soprattutto sul fronte delle candidature, rinnovando un ceto politico troppo vecchio, e sul fronte dei programmi, delle idee. Non basta attaccare Trump, bisogna avere una proposta positiva per il paese. Finora faccio fatica, io che faccio di mestiere giornalista, a descrivere la proposta nuova dei democratici per questa America. Sì, in effetti devo dire, qua vediamo che i democratici continuano ad accanirsi contro Trump sotto ogni punto di vista, a volte, come dire, secondo me sprecando anche un pochino le cartucce, però manca l'identificazione di un nuovo leader, manca l'identificazione di qualche nuova idea che possa in qualche modo andare a contrastare Trump, dico dal punto di vista della corsa elettorale, visto che si sono fatti sottrarre anche la battaglia che era tipica, no? Delle unions, dei sindacati e del Partito Democratico, e quella cioè di essere duri nei confronti di chi dal punto di vista commerciale approfittava degli Stati Uniti d'America. E dunque, avendo questo quadro in cui in fondo Trump ha fatto delle cose, e guardando oltre al 2018 e al 2020, oggi molti pensano che sia impensabile che Donald Trump possa essere rieletto, proprio per gli aspetti di volgarità, di prepotenza, di un-American, no? Che rappresenta questo presidente. Tu come la vedi? Io sono convinto che Trump ha in mente un percorso per la sua rielezione molto molto simile a quello della prima vittoria del 2016, cioè che lui pensi nel 2020 di poter rifare il miracolo di una vittoria di minoranza, seguendo esattamente la stessa geografia di collegi e di voti elettorali. Non è facile, ma non è neanche impossibile, come abbiamo visto, e lui quindi non si preoccupa di essere un presidente di minoranza. Certo che ha una minoranza di consensi, la maggioranza degli americani gli è contro, ma se lui tiene duro con quella minoranza, ce l'ha fatta una volta, può rifarcela. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su americamediquattro.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Bene, archiviato il Natale, a questo punto siamo di nuovo alla canzone del giorno. Federico, una canzone così che ti possa ispirare fuori dai carol natalizi. E allora Hurricane, l'uragano di Bob Dylan, che fa venire in mente altri uragani politici, forse in arrivo. Hurricane di Bob Dylan. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Three bodies lying there, there's Patty's up out of town. Reuben Carter and a couple of friends are driving around. Number one contender for the middleweight crown. Had no idea what kind of shit was about to go down. When a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat. Alfred Bellow had a partner and he had a rap for the cops. Him and other Dexter Bradley were just out prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car without upstate plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, they told him he could identify the guilty man. But one time he could have been a champion of the world. 4 months later, the ghetto's on flame. Rubens in South America fighting for his name. Well, after Dexter Bradley's still in the robbery game. And the cops are putting the screws to him looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar? Remember you said you saw the getaway car? Thinking like to play ball with the law. Think it might have been that fighter that you saw running at night. Don't forget that you are white. The Bradley said, I'm really not sure. The cop said, a poor boy like you can use a break. We got you for the motel job and you're talking to your friend Bellow. You don't want to have to move back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!